chi ti sposa se bianca non sei più. Sotto lo scialle il viso, nessuno vede il mio sorriso. Pungono i fichi d'India come le spine sul mio cammino. Ma quando prendo l'acqua alla fontana, io vedo te. Innamorata, innamorata, non ero stata mai. Rossa è la rosa, ma chi ti sposa se bianca non sei più. Senza uno sguardo mi passi accanto. È amara la mia gente come il profumo dell'oleandro. Ma quando torna indietro la processione, io vedo te. Yeah.